L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. I fatti da sabato scorso 6 marzo fino a ieri 12 marzo saranno al centro della puntata di oggi dell'ottavo giorno, ma almeno in questa prima parte potrete forse avere l'impressione di riascoltare una precedente puntata appunto del programma. La colpa non è nostra, ma è della politica. Infatti da qui partiamo, perché mancano ormai soltanto 15 giorni alle regionali, eppure i discorsi mi sembrano gli stessi un po' da settimane. Tutti gli schieramenti si sono arenati e, se mi passate il termine, si sono incarogniti su ricorsi al TAR, decreti salvaliste, accuse reciproche di attentato alla democrazia. Poi c'è tutta la questione complicata della par condicio e dei suoi regolamenti. Ieri l'avete anche sentito nei giornali radio di questa mattina, il TAR ha accolto i ricorsi delle TV private, quindi la partita si riapre in questo senso in maniera clamorosa. E così, insomma, alla fine di questa situazione davvero complessa non si parla poi dei problemi veri della gente. Io francamente non ho ancora sentito uno straccio di programma né da destra né da sinistra né dal centro, tanto per restare quindi in clima di par condicio. E dunque, per dare un'idea un po' del clima che si respira in questi giorni, ho scelto di farvi sentire specularmente, ravvicinati uno dopo l'altro, le cose dette da Berlusconi e Bersani mercoledì in due conferenze stampa a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Sentiamo allora prima Vincenzo Miglietta e poi Alessandra Schepisi. Assolve i suoi sul caso liste, attacca la sinistra ai giudici, si dice convinto della vittoria nelle prossime regionali. Interviene Silvio Berlusconi in prima persona nel dibattito politico e lo fa, spiega, costretto dalla disinformazione degli ultimi giorni, ed è una ricostruzione dettagliata quella del Presidente del Consiglio sui fatti che hanno portato all'esclusione del PDL nella capitale, e subito il Cavaliere precisa: non vi è stata alcuna responsabilità dei nostri rappresentanti. Ai delegati del Popolo delle Libertà del Lazio è stato impedito di presentare le liste. Berlusconi parla di gazzarra organizzata dai rappresentanti di altre liste, in particolare dai radicali. Non risparmia quindi critiche ai giudici e conferma il ricorso al Consiglio di Stato. Nel caso della Lombardia, aggiunge, c'è stato un atteggiamento fiscale nei nostri confronti. Il capitolo opposizione sono antidemocratici e meschini, dice il Premier. Sono come una squadra di calcio che vuol scendere in campo senza avversari, con l'arbitro amico che chiude l'altra squadra negli spogliatoi. Non prevediamo uno slittamento del voto, spiega ancora Berlusconi, non lo abbiamo mai pensato. Noi riusciremo a prevalere sui nostri avversari, che avrebbero preferito correre da soli, proprio come si usava nelle democrazie popolari sovietiche. Berlusconi, interrotto più volte in conferenza stampa da un contestatore, conferma la manifestazione del PDL per il 20 marzo, difende il decreto salvaliste e su questo ricorda il sottosegretario Letta, avvisò Bersani. Guardare oltre, cominciare ad occuparsi dei problemi della gente, insomma una campagna elettorale normale, questo è ciò che vorrebbe Bersani, il quale propone di rinunciare a tutti i ricorsi sia da una parte che dall'altra. Dico basta, mettiamo un punto fermo. Giunti a questo punto, il centrodestra rinunci ai ricorsi nel Lazio. Noi siamo pronti a fermare i ricorsi per quel che riguarda la Lombardia. Dice di non voler alzare i toni Bersani, ma non rinuncia alle stoccate a Berlusconi. Da lui solo ricostruzioni fantasiose, inutile prendersela con Tizio Caio quando c'è un verbale dei carabinieri. L'arroganza di non aver riconosciuto i propri errori. Mi pare che il governo del fare abbia dimostrato che è un governo del fare confusione. Mentre all'accusa del Premier replica: nessuno di noi ha mai pensato di escludere liste altrui, ma solo di chiedere il rispetto delle regole. Quanto al corteo di sabato sarà di proposta, non di protesta, dice Bersani, sicuro che Di Pietro non criticherà il Colle in piazza, ma quest'ultimo alza i toni: sabato ribadirò che Napolitano è stato ingenuo, duro il leader dell'UDC Casini, gravissimo che il PD manifesti con chi ha balenato l'impeachment per il capo dello Stato. A voler essere perfidi, mi sembra che stiamo rivivendo lo stesso film dal 1994, ormai sono passati più di 15 anni, destra e sinistra sono ferme lì al via sulla stessa linea di fuoco, e poi nei prossimi giorni vivremo altri due capitoli in fondo già visti. Oggi c'è la manifestazione del Popolo Viola, che dovrebbe tra l'altro riunire l'unione di prodiana memoria, perché da Vendola al centro ci saranno tutti i protagonisti, mancherà solo Mastella, nel frattempo passato dall'altra parte, ritornato anzi per meglio dire dall'altra parte, mentre il 20 marzo è in programma la manifestazione del PDL a San Giovanni, che dovrebbe addirittura radunare tutti i candidati alle elezioni, leghisti compresi, che poi non sembrano contentissimi di questo viaggio nella capitale. Ultima nota di cronaca la voglio dedicare a Rocco Carlo Magno, che non ha niente da fare naturalmente con il Sacro Romano Impero, ma è il nome dell'incursore che si è infilato nella conferenza stampa di Berlusconi di mercoledì, lo ha insolentito per un pezzo finché poi si è materializzato il ministro della difesa Ignazio La Russa, in questo caso più buttafuori che ministro, e insomma per il ruolo che aveva forse doveva un attimo contenersi di più. Riprendo il discorso che ho accennato già prima, ovvero a forza di parlare di liste da mettere no e far ruotare un po' tutto il discorso attorno al par condicio, la competizione elettorale finora mi sembra davvero poverissima di contenuti e si è così distratta anche dalle questioni più urgenti. Ad esempio l'economia, e su questo mi ha fatto molto riflettere un bel editoriale di ieri sulla Stampa firmato da Mario De Aglio, un ritratto molto preciso, puntuale, pieno di numeri della situazione economica italiana e più in generale europea. Ad esempio De Aglio ha ricordato che la produzione, posto che fosse pari a 100 nel 2005, un anno fa e nel marzo del 2009, nel pieno della crisi, ha raggiunto il suo punto più basso, fermandosi addirittura a 81,1. Oggi è in risalita, infatti gli ultimi dati di gennaio la certificano intorno agli 88 punti, 87,9 per la precisione, però segnala De Aglio, il ritmo di ripresa è piuttosto lento e tant'è vero che per tornare a 100 bisognerà addirittura aspettare il 2013. E nel frattempo però si saranno persi tanti soldi e tanti soprattutto posti di lavoro. Berlusconi in questi giorni ha lanciato dei segnali di incoraggiamento, ha detto che la ripresa è cominciata, però De Aglio ha invitato a fare di più, anche perché giovedì è calata dall'alto la sentenza della Banca Centrale Europea che in estrema sintesi ha detto che l'emergenza è finita e quindi adesso bisogna sistemare i conti e fare davvero sul serio le riforme. Quindi un monito peraltro non solo all'Italia ma a tutti i governi europei. Proprio sulla Banca Centrale Europea sentiamo da Francoforte il resoconto di giovedì firmato da Beda Romano. La Banca Centrale Europea è molto preoccupata per l'andamento delle finanze pubbliche nella zona euro, al di là del caso greco. Nel suo bollettino mensile pubblicato oggi fa notare che risanare i bilanci passa necessariamente per una riforma della spesa pubblica in tutti i paesi. Nel contempo ricorda che deficit elevati rappresentano un freno alla ripresa perché comportano un aumento del costo per il servizio del debito. In questo contesto la BCE sprona i paesi dell'Unione Monetaria ad iniziare il risanamento dei bilanci entro il 2011. D'altro canto la situazione economica sta migliorando, la ripresa è in atto anche se è altalenante e ancora incerta. Per ora la Banca Centrale non intende aumentare il costo del denaro, oggi all'1%, ma ha annunciato nei giorni scorsi nuove misure per ridurre progressivamente l'abbondante liquidità immessa sui mercati all'apice della crisi, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Il passaggio francamente stride un po', però in Parlamento, nel Parlamento italiano in questi giorni, il passaggio più importante è quello del Senato sul legittimo impedimento di mercoledì, come ci racconta da Palazzo Madama questa corrispondenza di Elisabetta Fiorito. Due fiducie fotocopia, un voto elettronico per un risultato scontato. Il disegno di legge sul legittimo impedimento passa all'esame del Senato per diventare legge dello Stato dopo due chiame di fiducia sui due articoli del provvedimento e il voto finale. La giornata trascorre abbastanza calma nell'aula di Palazzo Madama. L'Italia dei Valori in scena un sit-in di protesta in mattinata, mentre il Partito Democratico brandisce la Costituzione in serata. Nicola Latorre del PD. Dietro questa Costituzione, e gradirei Presidente, le chiedo di richiamare l'Aula a un atto di rispetto nei confronti della Costituzione. Tutti abbiamo rispetto per la Benissimo. Costituzione, ci mancherebbe, Senato Latorre. In nome di quei valori, noi oggi difendiamo lo Stato di diritto. Ma è l'intervento del capogruppo PDL Maurizio Gasparri ad infiammare il dibattito in aula e soprattutto le proteste dell'opposizione. Capisco che voi siete i depositari della verità. Presidente, io chiedo che... Sì, però non si può continuare. Voi siete liberi di protestare, ma fate finire l'intervento, per cortesia. Da oggi Premier e Ministri possono rimandare udienze nei processi a loro carico per impedimenti di natura istituzionale. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Donatella Stasio, collega del Sole 24 Ore, che ha seguito il voto sul legittimo impedimento, direi fin dall'inizio, ma tutta poi la complicata partita sulla giustizia. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Allora, ci ritroviamo credo un paio di mesi dopo, insomma stavamo prima facendo un calcolo empirico, era più o meno metà gennaio. La volta scorsa il tema centrale era il processo breve, per il quale peraltro tu avevi previsto un percorso quantomeno tortuoso poi in successive tornate in aula e che poi era vincolato, anche condizionato, soprattutto alla sentenza Mills che è arrivata a fine febbraio, si tratta veramente di pochissimi giorni fa. Io vorrei partire da questo, piaccia o non piaccia, direi che questo provvedimento sul legittimo impedimento è comunque meno dirompente del processo breve di cui parlavamo appunto 2 mesi fa. Sì, non c'è dubbio, perché il processo breve aveva ricadute appunto sull'intero sistema giudiziario, mentre il legittimo impedimento riguarda soltanto i processi in corso e quelli futuri in cui sono imputati il Presidente del Consiglio ed i ministri. Meno dirompente dal punto di vista delle ricadute sul sistema, si potrebbe discutere appunto sul fatto che non sia più o meno dirompente sulla tenuta, diciamo, di alcuni principi, ma questo, come dire, è legato anche ad una valutazione sulla, diciamo, costituzionalità del provvedimento. Ecco, dobbiamo aspettare adesso la firma di Napolitano. Secondo te ci sarà senza problemi o potrebbe sollevare, come ha già fatto in passato, obiezioni? Beh, sì, potrebbe sollevare. Molti giuristi hanno sollevato più di un dubbio anche pesante, diciamo, di costituzionalità. C'è un passaggio, un punto del provvedimento particolarmente delicato, che è quello sull'autocertificazione della Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio deve appunto certificare il legittimo impedimento del Premier o dei ministri, e sulla base di questa certificazione il giudice sarebbe tenuto, quasi, diciamo, obbligato a rinviare l'udienza anche per un periodo continuativo di 6 mesi e poi ancora di 6 mesi fino a un massimo di 1 anno e mezzo. Certo che il governo che certifica se stesso, insomma, non è il massimo della trasparenza, perlomeno. A parte questo aspetto, però, dal punto di vista, diciamo, tecnico, costituzionale, l'aspetto critico è nell'automatismo, perché sulla base di sentenze della Corte Costituzionale è stato più volte detto che bisogna lasciare al giudice comunque la possibilità di valutare, di soppesare il legittimo impedimento da un lato del parlamentare o del difensore, in questo caso sarebbe del Premier, e dall'altro lato, come dire, l'esigenza, le esigenze processuali, e quindi quella in modo particolare di una ragionevole durata del processo. Nel momento in cui al giudice viene tolta questa possibilità di valutazione e il giudice viene messo di fronte al fatto compiuto, per cui deve solo rinviare, ecco, questo potrebbe contrastare. Qui potrebbe essere un punto dolente del provvedimento. Naturalmente il legittimo impedimento non è un corpo avulso da tutto un discorso complesso, complicato, lungo, eterno per certi versi sulla giustizia. Vorrei che tu inquadrassi quello che è successo in questi giorni, il voto sul legittimo impedimento, su tutto poi il percorso parallelo di, per esempio, abbiamo parlato del processo breve prima, dell'immunità, insomma c'è tutto un disegno poi che sta dietro questo voto al Senato, che naturalmente ha visto la maggioranza sola contro tutti, perché neanche l'UDC, che in un primo tempo su questo provvedimento sembrava aperto alle istanze di Berlusconi e della maggioranza, anche in questo caso ha votato contro, quindi si è riunita assieme al PD. Sì, il legittimo impedimento è stato infatti definito una legge ponte proprio perché dovrebbe assicurare questa diciamo periodo di 1 anno e mezzo, durante il quale il governo punta ad approvare sostanzialmente o il lodo Alfano in veste costituzionale o comunque l'immunità parlamentare. L'immunità sempre con un cappello ampio di consensi a maggioranza. Ecco, appunto, esatto, l'obiettivo sarebbe quello di aggregare la maggioranza, una maggioranza la più ampia possibile, per evitare il referendum, perché questo, insomma, darebbe maggiori garanzie. Si tratta di vedere se, appunto, adesso dobbiamo innanzitutto vedere se la legge sarà promulgata, entrerà in vigore, se anche fosse impugnata davanti alla Corte Costituzionale, la sentenza della Corte non arriverebbe prima di 1 anno, quindi sostanzialmente in questo anno e mezzo l'obiettivo principale è questo. Se questo obiettivo prioritario risultasse impraticabile per una serie di ragioni, saranno determinanti anche le elezioni regionali, l'esito delle regionali sicuramente, e allora non è escluso che possa anche essere ripescato il processo breve, che intanto è in sonno, e con opportune modifiche possa essere in qualche modo rilanciato, sempre per risolvere alcune questioni giudiziarie. Proiettandoci sempre verso il futuro, siamo nelle ore, è di ieri la notizia, di nuove indagini su Berlusconi, questa volta arrivano da Trani, c'è cioè di mezzo l'Authority, pressioni per bloccare anno zero, quindi anche qui torniamo su un altro nodo scoperto, quello della par condicio. Ma dicevo, al di là di questo clima infervorato, poi c'è di mezzo naturalmente la campagna elettorale, quindi saranno due settimane roventi. Si può sperare in un clima più distensivo e più costruttivo complessivamente sulla giustizia, diciamo dal 1 aprile, da quando sarà passata la buriana delle elezioni regionali, oppure si continuerà in questo muro contro muro tra maggioranza, opposizione, Berlusconi e giudici, insomma una storia che procede ininterrotta ormai da 15 anni? Questa è una domanda difficile. Ma è difficile anche il tuo naso, il tuo fiuto di giornalista dove ti porta? No, sono anni, quasi 20, voglio dire, mi occupo di giustizia, domanda. No, forse 20 anni no, ma insomma una buona decina d'anni in cui praticamente ci facciamo questa domanda e la risposta è no. Io sono abbastanza scettica, anche perché tra l'altro proprio da un punto di vista tecnico, volendo rimanere appunto su questo piano, questi provvedimenti poi mettono a riparo, tra virgolette, i processi. Ecco, tu hai parlato di indagini, eventuali ulteriori indagini. Quelle vanno avanti comunque. Quelle vanno avanti e quindi quelle sono destinate a creare polemiche inevitabilmente le stesse a cui abbiamo assistito appunto in questi giorni, nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti. Come ci capita ormai da alcune settimane, metà trasmissione se n'è già andata, si è persa per così dire con il riassunto e l'analisi delle faccende della nostra politica. Credo sia inevitabile, siamo a poche settimane da un voto, comunque la si voglia vedere è cruciale, ma naturalmente noi cerchiamo anche di non fermarci a osservare il nostro ombelico, anche perché spesso non è uno spettacolo edificante. Allarghiamo così l'orizzonte spostandoci nell'angolo poi in realtà più complicato del pianeta, ovvero il Medio Oriente. In questo trasferimento immaginario verso est ci farà da guida in questi minuti, nei prossimi minuti, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore e un amico ormai dell'Ottavo Giorno. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora Alberto, cominciamo dall'Iraq, perché domenica si sono svolte delle elezioni direi molto importanti sia sul piano simbolico ma anche soprattutto pratico e dunque politico. Sono state, lo ricordo, le prime elezioni con gli americani non più attori in primo piano, almeno nella gestione della sicurezza, ma messi così in posizione defilata. E allora, per entrare nel merito di questo voto, riascoltiamo la controcopertina del GR delle 8 di martedì, firmata dall'inviato a Baghdad, Roberto Bongiorni. Un vincitore c'è già, il popolo iracheno e il suo coraggio. C'è anche un perdente, Al-Qaeda, che non è riuscita a far deragliare il processo elettorale. Comunque andranno le cose, le elezioni politiche in Iraq sono già un successo, perché l'affluenza alle urne è stata alta, il 62% degli elettori. D'accordo, non è stato ripetuto il premato del 70% del 2005, allora si trattava delle prime elezioni dopo 30 anni di dittatura. I sunniti però boicottarono in massa il voto. Risultato? Estromessa dal potere, l'elite del partito sunnita Ba'ath, lo strumento politico di Saddam Hussein, contribuì a far precipitare il paese nella guerriglia interconfessionale. Anni bui, il 2006 e il 2007, che oggi a Baghdad sembrano un ricordo. Ieri la vera novità è arrivata proprio dai sunniti. In alcune loro roccaforti l'affluenza ha toccato picchi del 70%. Altra buona notizia. Un gruppo di osservatori indipendenti ci ha detto che vi sono meno irregolarità rispetto al 2005. È davvero il nuovo Iraq? La prudenza è d'obbligo. Al-Qaeda, seppur ridimensionata, è in grado di portare avanti sanguinosi attentati come quelli di domenica. E poi resta un'incognita. Se i risultati ufficiali sono attesi a fine mese, i tempi per dar forma a un governo, questa volta si spera di maggioranza e non di unità, rischiano di essere molto lunghi, creando così un pericoloso vuoto di potere. Comunque vada, sfidando le bombe, gli iracheni hanno dato prova di grande coraggio e responsabilità. Vogliono il nuovo Iraq. Ora tocca ai politici esaudire il loro desiderio. Alberto Negri, aggiungo soltanto che nel frattempo stanno arrivando, naturalmente con la lentezza del caso, i primi risultati, che al momento, risultati molto parziali, danno in testa leggermente il premier uscente al-Maliki, ma lo sfidante Alawi ha già denunciato brogli. Ma a me soprattutto interessa il tuo parere su un'altra cosa, cioè su quello che ci ha raccontato Bongiorni, ovvero che comunque è stato un successo del popolo iracheno e di conseguenza è uscita sconfitta Al-Qaeda, che peraltro ha colpito duramente l'Iraq domenica con una serie di attentati a ripetizione, con un bilancio terribile di 38 morti e più di 100 feriti. Alberto, a te la parola. Ma c'è sempre, come dire, una certa fretta nel cercare di archiviare queste elezioni irachene, soprattutto da parte degli americani che non vedono l'ora di andarsene. Questa, come ha detto Obama, non è la mia guerra, e proprio per questo lui si concentra sull'Afghanistan e vorrebbe entro agosto del 2011 ritirare le truppe americane con una tappa intermedia, tagliandone la metà addirittura nel settembre di quest'anno. Quindi c'è, come dire, la voglia anche di in qualche modo dire che tutto in questo processo sta andando bene. In realtà c'è molta incertezza perché, come si diceva prima nel servizio, dopo queste elezioni bisognerà fare un governo. Nessuno delle liste partecipanti avrà la maggioranza per poterlo fare da solo, dovranno fare delle coalizioni, può darsi che le trattative vadano molto avanti, lo stesso Parlamento dovrà peraltro eleggere un nuovo presidente, quindi c'è una grande dose di incertezza e ancora di instabilità per un paese che, ricordiamolo, è vero che gli americani sono stati dietro le quinte in queste elezioni, ma sono ancora 100.000 sul terreno e sono 120.000 i contractors, cioè in qualche modo i mercenari che tengono l'ordine in Iraq. Quindi tu sinceramente non te la senti di fare una previsione sull'Iraq che uscirà fuori dopo la composizione del governo? Cioè il tuo giudizio sarà più o meno sicuro, più o meno stabile? Gli americani potranno cominciare a pensare davvero al ritiro? No, se mi sento di fare una previsione è questa, che una volta che sarà formato questo nuovo governo, e questo nuovo governo sarà un governo probabilmente anche instabile, tra l'altro dovrebbe prendere alcune decisioni che non sono state mai prese finora, per esempio una legge sul petrolio che non c'è ancora, in realtà bisognerà vedere se l'Iraq sarà un paese stabile. Innanzitutto è già un paese diviso, il Kurdistan se ne va e se ne sta per conto suo, dove i partiti curdi hanno naturalmente la stragrande maggioranza, vorrebbero tra l'altro portare nel proprio territorio, nella propria amministrazione, Kirkuk, il centro petrolifero, e su questo già ci sono forti dissidi. In più il sud sciita vorrebbe anche un'autonomia ancora più forte per sfruttare le proprie risorse petrolifere. Quindi ci sono già delle divisioni etniche, settarie e geografiche ben evidenti. E poi c'è tutta quell'incertezza che ha sempre gravato su questo paese quando il potere non era in mano a un uomo forte o era in mani non sicure, cioè che si provochino colpi di Stato, colpi di mano, contestazioni, e già le vediamo adesso per i risultati elettorali. Alberto, l'Iran, che è il vicino scomodo dell'Iraq, paese che tu tra l'altro conosci bene, forse addirittura meglio che lo stesso Iraq, che ruolo ha avuto, se ha avuto un ruolo in queste elezioni, e soprattutto cosa si aspetta? Guarda lì alla finestra che succede, che fa l'Iran? Certamente l'Iran ha un grosso interesse sull'Iraq, un interesse che è politico, religioso, perché il 60% della popolazione è sciita, un interesse strategico, perché dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, ostile a Teheran, gli iraniani sono penetrati anche con le loro truppe speciali, con Al-Qaeda in gran parte del paese. Senza dimenticare che buona parte della leadership irachena attuale, che sia sciita, che sia curda, in qualche modo deve qualcosa a Teheran, perché da Teheran sono stati protetti ai tempi del regime di Saddam. Una delle caratteristiche del Medio Oriente, che poi spesso si trasforma anche in un problema, è che da quelle parti un po' tutto si lega, quindi l'Iraq, l'Iran, ovviamente ancora di più quello che accade tra israeliani e palestinesi, si intreccia indissolubilmente e spesso si confonde. Quindi non possiamo, in questo spazio dedicato al Medio Oriente, ignorare la visita di 3 giorni del vicepresidente americano Joe Biden a Gerusalemme e nei territori occupati. Tanti gli appuntamenti del leader americano, come sempre bilanciati anche in modo ossessivo, ma insomma la diplomazia del luogo che lo impone, tra parte israeliana e parte palestinese. Ascoltiamo allora un servizio firmato da Cristina Balotelli mercoledì mattina proprio su Joe Biden a Gerusalemme. L'Iran al centro dei colloqui tra Israele e Stati Uniti. All'alleato americano, importante baluardo nella difesa della sicurezza dello Stato ebraico, il presidente Shimon Peres dice che il regime iraniano non merita di occupare un seggio all'ONU con pieni diritti. Gli Stati Uniti assicurano di essere fianco a fianco con Israele, viste le preoccupazioni comuni sul programma nucleare di Teheran. Dopo aver incontrato l'intero vertice politico di Gerusalemme, il numero 2 dell'amministrazione Obama, Joe Biden, si recherà nei territori palestinesi. Intanto in Iran si è creato un vero e proprio giallo politico intorno all'ex presidente riformista Khatami, sostenitore del movimento di opposizione, quando l'agenzia filogovernativa Fars ha dato notizia di un presunto provvedimento delle autorità per vietargli l'espatrio. Un annuncio smentito poco dopo da un suo collaboratore. Khatami è considerato da ambienti vicini al presidente Ahmadinejad come uno tra i principali responsabili delle proteste e degli incidenti avvenuti a Teheran dalle presidenziali del giugno 2009. Molte cose emergono da questo servizio, ma naturalmente non tutte. C'è stata ricordata da Cristina Balotelli la difesa d'ufficio di Israele da parte americana nei confronti del nemico numero uno, ovvero l'Iran, però manca il resoconto, per ragioni naturalmente cronologiche, della parte successiva della visita, quella ai palestinesi, nella quale Biden non si è certo tirato indietro, ha apertamente, anche platealmente criticato Israele per i nuovi insediamenti dei coloni. E io, Alberto Negri, ho avuto questa sensazione, così analizzando a posteriori, dopo tre giorni, la visita di Biden, ovvero che di solito un leader politico quando va in Medio Oriente si muove doverosamente con i piedi di piombo, quando parla con gli israeliani dice una cosa a loro favore, quando va dai palestinesi li compiace su un'altra, insomma anche Berlusconi recentemente ha fatto più o meno questo, quindi insomma possiamo dire che applica la politica dei due forni. Invece Biden mi sembra che sia entrato a gamba tesa nella questione senza paura, senza remore, tant'è vero che i palestinesi mi sono sembrati molto contenti della visita di Biden, un po' meno gli israeliani, e anche sulla stampa locale si parla di freddezza, di gelo tra Stati Uniti e Israele. Tu che come hai visto questa incursione politica, diplomatica di Biden in Medio Oriente? Ma la visita di Biden, forse ha ragione, è stata caratterizzata da un intervento certamente non leggero sulla situazione, ma ricordiamoci anche da che cosa è stato provocato, cioè lui è arrivato a Gerusalemme bel mezzo con un annuncio del ministro israeliano dell'edilizia che dava il via all'estensione di un rione ebraico a Gerusalemme Est, cioè nella parte araba e palestinese. Insomma, quindi tacere sarebbe stato grave, insomma. Ma certo, di fronte a questo tipo di situazione Biden non poteva non dire qualche cosa di forte, anche perché avrebbe dovuto andare poco dopo appunto a Ramallah. Quindi era anche evidente che ci fosse una situazione di questo genere, ma la cosa secondo me interessante che sottolinea la stampa israeliana anche in questi giorni è che questa visita di tre giorni a Gerusalemme sia un po', come dire, sfociata in una crisi di fiducia tra Stati Uniti e Israele. Questo, diciamolo, avviene un po' per la prima volta in questi termini così pesanti, e certamente se finora Obama in qualche modo aggirava certe problematiche che venivano dallo Stato ebraico, adesso di fronte alle parole di Netanyahu certamente assumerà forse atteggiamenti diversi. Non poteva essere altrimenti, anche per dare una scossa alla necessità di riprendere i negoziati tra le due parti. Ma dunque, Alberto, per chiudere anche il nostro ragionamento e rafforzare in fondo quello che hai appena detto, possiamo dire che al di là della contingenza della visita, ormai Obama è da più di un anno insomma in sella agli Stati Uniti, sicuramente Biden ha detto cose di comune accordo con il suo presidente e anche con il segretario di Stato Hillary Clinton, possiamo dire che con questa amministrazione il baricentro si è spostato rispetto a Bush più dalla parte araba, un po' più dalla parte araba rispetto a quella israeliana? Ma questo era un po' nelle intenzioni forse anche di Obama quando esordì alla Casa Bianca, ricordiamoci i discorsi che fece, soprattutto quello molto pubblicizzato del Cairo, no? Questa mano tesa al mondo arabo e musulmano, le stesse profferte che fece di dialogo all'Iran. Però non dimentichiamoci mai la realtà dei fatti. Come se sempre diciamo, la realtà è più complicata poi dei proclami. Non solo, ma l'intenzione dell'amministrazione americana di seguire la via del dialogo e della persuasione in Medio Oriente in realtà si scontra molto di più con quella del conflitto e delle divisioni, ed è questo il vero problema, cioè al di là della volontà dell'amministrazione americana o dell'Europa o dell'Occidente di avviare il dialogo, ci si trova davanti a situazioni di grave conflitto. Ci avviciniamo ormai a fine puntate, allora mi voglio prendere questi ultimi minuti per ricordare, riannodare il filo per alcune notizie, tutte naturalmente sarebbe impossibile, tralasciate importanti, significative di questi giorni, di questa settimana. Qualcuno che ci ha ascoltato la settimana scorsa si ricorderà sicuramente della parte dedicata al Vaticano, agli scandali sessuali e anche finanziari che stanno soffiando oltre Tevere. Torniamo su questo tema brevemente nei prossimi minuti, perché sul fronte della pedofilia la sensazione è che ormai la pentola si sia aperta e che ogni giorno esca del fumo anche fuori dall'Italia, soprattutto fuori dall'Italia. Sentiamo allora su questo proprio l'analisi di un amico, peraltro un abituale ospite dell'Ottavo Giorno, il vaticanista del Sole 24 Ore Carlo Marroni. La sua analisi era nel GR delle 7 di ieri mattina. A poche ore dall'incontro tra il Papa e il capo dei vescovi tedeschi, con al centro lo scandalo degli abusi sui minori, la Chiesa cerca di far quadrato e lancia un messaggio chiaro. La pedofilia, dice, è un peccato grave che esclude dal sacerdozio, ha detto il vescovo di Ratisbona Gerhard Müller, che per primo ha denunciato i casi della sua città, vicenda che tra l'altro ha sfiorato anche il fratello di Benedetto XVI. La vicenda è poi sbarcata addirittura all'ONU. L'ambasciatore vaticano presso la sede di Ginevra delle Nazioni Unite, Silvano Tomasi, è stato molto determinato. Non ci possono essere scuse per i preti che si macchiano del crimine odioso di pedofilia e la protezione dei minori da queste aggressioni deve essere in cima alle priorità della Chiesa. Intanto i cardinali e i vescovi, riuniti a Roma per un maxi convegno sul sacerdozio, respingono ogni accostamento tra pedofilia e celibato, come emerso nelle ultime ore. In ogni caso il fenomeno non cessa di dilagare. La diocesi austriaca di Linz esaminerà le accuse di abusi e maltrattamenti presentate contro 3 sacerdoti di una scuola cattolica. Adesso cambiamo completamente pagina, perché approfitto di questi minuti per ricordare 2 giornalisti molto diversi tra loro, di un'importanza diversa poi sulla scena italiana, nella storia del giornalismo italiano, però entrambi a loro modo molto amati e molto popolari. Sto parlando di Alberto Lonché e Tonino Carino, che sono entrambi scomparsi lunedì. Sentiamo allora i ritratti, prima di Paolo Pancieri e poi di Dario Ricci. Io praticamente ho viaggiato per 60 anni, avevo 4 valigie. 2 per i climi caldi e 2 per i climi freddi. Partivo e tornavo, si potrebbe dire, il giro del mondo in 60 anni. Così Alberto Lonché descriveva la sua vita professionale durante l'ennesima premiazione per la sua attività, che è stata soprattutto giornalistica e letteraria, ma ha avuto anche un importante riscontro politico. Lonché infatti era stato ministro per i beni culturali nei governi Amato 1 e Ciampi dal 1992 al 94. Giornalista attento all'analisi dei dati, ai riferimenti storici e alla grafia dei vocaboli stranieri da una parte, dall'altra la sua inventiva gli aveva fatto coniare neologismi diventati di uso comune, come lottizzazione, per definire l'abitudine dei partiti di spartirsi le nomine negli enti pubblici, in primo luogo alla RAI, oppure fattore K, formula adottata da Lonché per indicare nel Partito Comunista l'ostacolo per la sinistra italiana diventare un'alternativa alla Democrazia Cristiana. Grande editorialista ed inviato, aveva avuto l'opportunità di osservare da vicino sia la Russia di fine anni 50, con il tentativo di riforme di Khrushchev, sia gli Stati Uniti degli anni 60 e della contestazione giovanile. E proprio i suoi reportage dall'estero gli avevano procurato ampia notorietà e la nomina alla direzione della Stampa. È tutta in una sigla la carriera di Tonino Carino. Anzi, Tonino Carino da Ascoli, come il giornalista firmava le sue corrispondenze al 90° minuto. Carino era la voce dall'inconfondibile accento marchigiano che narrava le imprese di quella provinciale terribile che il pirotecnico presidente Costantino Rozzi aveva portato, grazie a Carletto Mazzone in panchina, a sedere al tavolo buono del calcio italiano, in Serie A. Calcio d'altri tempi, dove la Nazionale TV era proprio la squadra di Paolo Valenti, che raccontava partite ed emozioni ai tifosi di tutta Italia. Altro che le parabole, i satelliti e gli spezzatini TV che sarebbero arrivati una 40 d'anni dopo. Su quei collegamenti e quelle cronache Carino aveva costruito la propria popolarità, che ne aveva fatto un ospite fisso anche del Football TV di oggi, targato Quelli che è il calcio. Prendiamoci così un finale in gloria, perché nella settimana della proclamazione, peraltro del vincitore di quella che è stata la più lunga e forse direi più sopra le righe edizione del Grande Fratello, ha vinto il ruspante veneto Mauro Marin nella notte di lunedì, la notte prima, quella tra domenica e lunedì, sono stati assegnati premi ben più famosi, ben più importanti a Hollywood. Sto parlando naturalmente degli Oscar, nel segno di Kathryn Bigelow. Il racconto e la lunga lista dei vincitori con Marta Cagnola. Well, the time has come. Catherine Bigelow! The time has come, il momento è arrivato. Lo dice Barbara Streisand, è arrivato il momento che una donna vinca l'Oscar come miglior regista e che porti a casa anche la statuetta per il miglior film. Catherine Bigelow con The Hurt Locker ha vinto la sfida con Avatar dell'ex marito James Cameron, 6-3. And I just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis. La Bigelow ha dedicato i suoi premi a tutti gli uomini e le donne che portano un uniforme in ogni parte del mondo, non soltanto i soldati, ha detto, ma anche i vigili del fuoco, che sono sempre pronti per noi quando serve. Momenti di commozione, come sempre nella notte degli Oscar, soprattutto nei ringraziamenti degli attori premiati. So, if I can take this moment to thank Helga B. For not letting me write in cards with boys. Sandra Bullock ha ricordato la madre Helga, scomparsa prematuramente 10 anni fa. Bullock, che ha vinto per The Blind Side, e per la prima volta un'attrice vince il giorno prima il Razzie per la peggior interpretazione, ritirato con grande ironia, e il giorno dopo l'Oscar. Mom and Dad, yeah, look! Un ricordo ai genitori, entrambi attori, per Jeff Bridges, finalmente premiato per Crazy Heart. Migliori non protagonisti Monique per Precious e Christoph Waltz per l'unico Oscar a Inglourious Basterds di Quentin Tarantino. Sorpresa per il miglior film straniero. Nonostante i pronostici vedessero come favorito Il nastro bianco di Michael Haneke, ha vinto l'argentino e Il segreto de sus ojos. Deluso, dicevamo, Avatar, solo 3 premi. Almeno uno dei 3, però, è andato a un italiano. Uno dei 2 premiati stanotte, oltre a Michael Giacchino, miglior colonna sonora per Up, nato negli Stati Uniti, ma da un anno anche cittadino italiano, Marco Fiore, miglior fotografia, appunto, per Avatar. Sul palco ha salutato i genitori, partiti con lui piccino dalla Calabria e tutta l'Italia. Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia, un grande abbraccio. Thank you. Non c'è più tempo per mandare altri servizi della settimana, però ne approfitto perché abbiamo ancora un minuto abbondante per fare un po' un riepilogo dei tanti fatti di sport che sono successi in questi giorni. Il calcio la fa quasi come sempre da padrone. C'è stata per esempio la Champions League con note amare per l'Italia. C'è stata la sonante, clamorosa sconfitta del Milan 4-0 a Manchester, quindi Milan eliminato. Molto più bruciante però l'eliminazione della Fiorentina, beffata dal Bayern Monaco, anche se ha vinto la partita di Firenze 3-2, tutto naturalmente condizionato dall'arbitraggio scandaloso dell'andata. Ricorderete la sconfitta a Monaco per 2-1 con un evidente fuorigioco nel gol decisivo dei tedeschi. Rimane solo l'Inter in lizza perché giocherà la settimana prossima. Io ho paura che si avvicini il verdetto durissimo per l'Italia, che abbiamo fatto a suo tempo a dicembre, io e l'amico Carlo Genta della redazione sportiva, che abbiamo pronosticato 0 italiane su 3 ai quarti. Speriamo di essere smentiti dal campo, speriamo nell'Inter martedì prossimo. Però tutto la settimana di calcio, direi che la notizia più importante a livello europeo è l'eliminazione del blasonatissimo Real Madrid, che è stato fermato in casa da Lione 1-1, quindi Real Madrid a casa, nonostante la campagna acquisti scintillante di quest'estate, nonostante che la finale della Champions League di quest'anno si disputi a Madrid, e sicuramente la squadra spagnola sperava di essere lì protagonista, magari con l'odiata rivale, il Barcellona. Invece il Real Madrid è già a casa anzitempo. Ultima annotazione per la Formula 1, che riparte domani, primo Gran Premio della stagione, una stagione ricca di novità, se non altro perché in pista torna forse il più grande pilota, perlomeno dell'era moderna, della Formula 1, ovvero Michael Schumacher, non con la Ferrari come siamo stati abituati in questi anni, ma con la Mercedes. Staremo a vedere. Mi fermo qui perché veramente abbiamo detto tutto o quasi di questa settimana. Ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 9. Naturalmente siamo tutta la settimana sul nostro sito www.radio24.it.